Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Ci sono mari che, non si vedono, ma si ricordano. Mari che toccano l'anima, non la pelle. E oggi ci immergiamo proprio in uno di questi, esplorando il racconto Il mare che non si vede di Virginia Luneas. Fa parte di Casa Luneas, un progetto molto evocativo, e della collana Sottopelle. Il nostro obiettivo qui è, capire insieme questa storia. Una storia sulla percezione, sull'ascolto e, sulla potenza delle parole. Sì, ottimo punto. Casa Luneas, scritture senza tetto, come si definiscono. Già questo nome, no? Suggerisce apertura, profondità. E questo racconto, come altri della collana, ci porta proprio lì. Nell'invisibile dentro il visibile. La nostra missione, se vogliamo, è scoprire come una mancanza, la cecità, possa diventare possibilità. E come la parola possa essere mappa, guida. Al centro della nostra idea c'è Elias. Un uomo cieco, ospite in una clinica affacciata sull'acqua. Lui il mare fisicamente non lo vede, ma lo sente, lo respira potremmo dire, e ogni giorno lo racconta agli altri pazienti. Trasforma quei luoghi, quei silenzi. C'è una frase che mi ha colpito molto, diceva che il mare si ascolta meglio con gli occhi chiusi. Esatto. Questo ci dice subito una cosa fondamentale. Non è una storia di guarigione fisica. È una storia di trasformazione interiore, di uno sguardo che si sposta, dall'esterno all'interno. Le parole di Elias, infatti, non sono semplici descrizioni. Diventano specchi, orizzonti, per persone che magari avevano smesso di cercare e di guardare. Lui non racconta solo il mare. Lo restituisce, lo rende presente. Ah, interessante questo restituisce. Sì, e la sua cecità nel racconto non è una privazione. Anzi, c'è un passaggio dove si dice, più o meno, quando perdi la vista guadagni profondità. Non vedi più le cose, ma le senti. Ecco, questo sentire profondo è un po' la chiave, mi pare, anche del progetto Casa Luneas. Assolutamente. E questo sentire si manifesta in un rituale quasi quotidiano, no? Elias, vicino alla finestra, chiusa, e da lì interpreta i suoni, le sensazioni, l'aria, per descrivere com'è il mare. Oggi è nervoso, dice. Oppure grigio ma non triste. Ed è incredibile l'effetto che ha sugli altri. Trovano conforto in queste parole. C'è quell'episodio molto toccante della ragazza che ha perso la vista da poco. Sì. Dopo averlo ascoltato, si avvicina alla finestra, quasi a toccare quella visione che lui ha evocato. E lui non si ferma alla descrizione, guida anche delle specie di visualizzazioni collettive. Li invita a sentire il mare dentro. Ecco, la parola che agisce, che trasforma. Proprio così. E non si limita al mare, Elias. Questo è un altro punto forte. Descrive le persone, ma le descrive come se fossero paesaggi. A una donna dice: tu sei una spiaggia al tramonto. Bellissimo. Sì, o a un giovane con una cicatrice sul volto. Gli sfiora il viso e dice qualcosa tipo: hai il volto di chi ha visto il mare in tempesta. Le parole, come dice il testo, disegnano nell'anima. E questo stimola gli altri a esprimersi di nuovo. Com'è? Iniziano a scrivere, a disegnare, qualcuno scolpisce, ritrovano una voce. E questa capacità della parola di arrivare così in profondità, sotto pelle, è proprio il cuore del lavoro di Virginia Luneas, di Casa Luneas. Sì, e poi c'è quel momento, quasi catartico, nella stanza bianca, uno spazio un po' a parte, sembra. Esatto. Lì una ragazza, che era muta da tempo, rompe il silenzio. E cosa chiede? Chiede proprio a Elias: com'è il mare oggi? È potentissimo. La parola che genera parola, che crea un ponte. E da lì è come se la narrazione diventasse condivisa, anche quando Elias decide di andarsene. La sua partenza? Sì, introduce un concetto cruciale. L'orizzonte più vero è quello che portiamo dentro. Non è un abbandono la sua partenza, è un andare verso il mio orizzonte. E lascia un segno, una conchiglia sulla sedia vuota. un simbolo perfetto, no? Della sua presenza che resta, invisibile. Bellissimo. Infatti la sua eredità continua. Sono gli altri pazienti ora, guidati proprio da quella ragazza. Quella che ha rigiovato la parola, sì. Esatto. Sono loro che continuano a raccontare il mare. E lei, guardando fuori, dice una frase finale stupenda. Elias, oggi il mare è come te. Invisibile, ma presente. Lega tutto. Assenza e presenza. Perfetto. È proprio l'essenza di questo racconto. E direi dell'intero progetto Casa Luneas e della collana Sottopelle di Virginia Luneas. Sono scritture che esplorano proprio questo. Le memorie, le assenze, i legami che non si vedono, i silenzi che parlano, quello che si sente più che quello che si vede. Scritture che lavorano sotto la superficie, che restano. Insomma, il mare che non si vede ci fa riflettere sulla nostra capacità di percepire oltre la vista, sul potere della narrazione condivisa come strumento di connessione. Di trasformazione. E tutto questo grazie alla penna di Virginia Luneas e al suo progetto Casa Luneas. Ci lascia forse con una domanda o uno spunto. Le realtà più importanti sono davvero quelle che vediamo subito? O forse sono quelle che sentiamo, che ricordiamo, che scegliamo di raccontare? Viene da chiedersi quali mari invisibili, quali orizzonti interiori aspettano dentro chi ci ascolta di essere scoperti o raccontati. Magari la vera vista inizia proprio quando chiudiamo gli occhi. Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare. Un luogo libero, dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal, nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.